Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. Questa canzone di Fabrizio De André segna la conclusione o il momento di crisi del periodo esaminato nel libro che adesso vi propongo e che ci riporta nell'Italia impiegatizia del dopoguerra, quando l'economia esplode, il benessere si diffonde e si consolida una classe sociale che fino allora era rimasta assolutamente minoritaria, cioè il ceto medio. E appunto Storia intima dei ceti medi, una capitale e una periferia nell'Italia del miracolo economico, si intitola il libro che vi presento di Enrica Ascolti Square, che è una storica, libro pubblicato dalla Terza, 228 pagine, 20 euro. L'autrice ha condotto un'attenta analisi su due comunità distanti nello spazio e nella mentalità, possiamo dire soprattutto negli anni ai quali ci riferiamo, e cioè gli anni 50-60, Milano da un lato e Cagliari dall'altro. E la sua ricerca è un interessante esempio di storia orale, cioè di un'analisi condotta sulla base di testimonianze raccolte dalla stessa storica presso persone e famiglie che raccontano l'Italia di allora e sono espressione di questa affermazione del ceto medio. E quindi esaminiamo come sono cambiate, si sono consolidate le abitudini, i valori, le culture, fino appunto alla cesura rappresentata dal 68, quella che viene salutata da De André con la canzone Storia di un impiegato, di cui abbiamo sentito qualche nota. Ma sentiamo su questo l'autrice. Buongiorno a Enrica Square. Professoressa Square, lei spiega in questo libro, fa un collegamento fra la storia e l'evoluzione dei ceti medi italiani e un collegamento forte con la storia d'Italia. Ecco, in che cosa i primi ceti medi hanno influito sulla definizione della storia del nostro paese nel dopoguerra? Questi ceti medi che io ho analizzato sono in particolare coppie di sposi degli anni 60, quindi persone nate tra fine anni 30 e primi anni 40, e sono sostanzialmente le prime coppie di sposi che hanno vissuto all'ombra di quello che è definito miracolo economico, quindi no, periodo di grande progresso economico. Sono le prime che mettono, che acquistano gli elettrodomestici, che costruiscono quindi una vita quotidiana su basi nuove, per cui chiaramente hanno inciso su quel cambiamento di stili di vita, eccetera, che di solito si ricorda col nome appunto di miracolo economico. Ecco, in questa trasformazione un ruolo importante la ebbe la casa, lei sottolinea, anche come scelte politiche, insomma si privilegiò molto la proprietà della casa, una scelta che alla fine si è rivelata vincente. Le politiche dei governi di quei tempi furono orientate sostanzialmente a favorire l'acquisto in proprietà della casa. La scelta fu vincente per certi versi, nel senso che si valorizzò in qualche modo quello che è un comportamento ancora tutt'oggi, potremmo dire, virtuoso del consumatore italiano, cioè la tendenza al risparmio. Dall'altra parte, però, certamente questo ebbe poi anche degli effetti di accentuazione della disuguaglianza sociale, perché naturalmente l'accesso alla proprietà privata poteva essere gestito soltanto da famiglie che avevano una certa quota di risparmio, e questo naturalmente non fu per le fasce popolari, per le quali le politiche sociali della casa furono, tranne il piano in a casa, abbastanza risicate. Ecco, veniamo a questo punto che ha toccato del risparmio. Lei nel suo libro relativizza in fondo la smania consumista, a un certo punto scrive che il ciclo lavora spendi, nel quale appunto questi ceti medi sembrano essere stati immersi, non risulta attraversato da una generica bramosia consumista, piuttosto si parla di una cultura consumatrice ma al tempo stesso conservatrice e conservativa, quindi insomma qualche cosa di innovativo rispetto all'interpretazione corrente di una sbornia consumistica dagli anni 60 in poi. Naturalmente io ho voluto applicare una serie di categorie che appartengono agli studi, diciamo, di cultura materiale cosiddetti, e allora con un approccio un po' antropologico, eccetera, analizzando i racconti di questi intervistati ma anche osservando le loro case, che sono molto simili a quelle fatte negli anni 60, cioè con gli stessi mobili ancora oggi, si vede come c'è una forte tendenza di questa generazione che ha vissuto la guerra, quindi che ha conosciuto anche la povertà, eccetera, c'è una certa tendenza a conservare. Quindi in realtà sì, secondo me va un po' relativizzata l'immagine un po' stereotipata di questi ceti medi tutti immersi nel consumo. Certamente, cioè, si consumò di più e si consumarono oggetti nuovi, la lavatrice, gli elettrodomestici, quindi il mondo materiale di questa generazione è da lì in poi fu ampiamente rivoluzionato, però si dimentica, si tende sempre quando si parla di consumi a privilegiare l'aspetto dell'acquisto e a dimenticarsi poi tutto quello che viene dopo. In particolare per questa generazione fu altrettanto importante conservare bene gli oggetti conquistati, anche perché erano oggetti molto costosi, di grande valore ancora, no? La televisione veniva quasi arredata con il centrino di pizzo messo sopra, quindi ci sono proprio anche dei fenomeni di tesaurizzazione di questi beni, o anche l'automobile arredata con le catenine, tutti questi esperimenti del quotidiano ci dimostrano che il loro atteggiamento nei confronti del mondo materiale, secondo me, non può essere definito genericamente consumista. Ecco, come ho spiegato prima, questo libro nasce da una serie di incontri. È una manifestazione di storia orale, incontri che, come diceva lei, appunto nelle case di tante famiglie medio-borghesi tra Cagliari e Milano. Ecco, sì. Che cosa ha trovato di comune tra Cagliari e Milano in quegli anni? Si sono riavvicinate queste due realtà così diverse, così lontane, proprio grazie a questo processo? Sì, nel senso che ovviamente io partivo dal presupposto di una grande diversità, mi aspettavo una grande diversità, perché tutti gli indici relativi alla produzione economica di quegli anni parlano ovviamente di una grande povertà e di una grande arretratezza della Sardegna, e Milano ovviamente invece va da sé, era la capitale del miracolo. In realtà questi ceti medi su cui io mi sono concentrata in quegli anni svolgono un ruolo di cinghia di trasmissione di valori, di modernità e trasformazione che tutto sommato circolano in tutta Italia per il loro tramite. Naturalmente poi ho scoperto anche delle differenze, perché si tratta ovviamente di società e di culture molto diverse, in particolare ovviamente a Cagliari tutto ciò che era moderno veniva da fuori, no? Veniva dal continente oltre il mare, e quindi anche l'approccio verso le novità era un approccio o di totale rifiuto, quasi di paura rispetto a oggetti e comportamenti che potevano trasformare completamente l'innocenza, no? Della cultura sarda, oppure dall'altra parte invece c'era un atteggiamento quasi di ammirazione acritica, no? Verso questi oggetti scintillanti che venivano da una modernità che veniva da lontano, insomma, quindi tutta da ammirare. Mentre chiaramente la vita milanese era già una vita modernizzata, il miracolo a Milano parte molto prima di quanto non parta nel sud Italia, per cui le differenze ci sono, però è sorprendente vedere come, proprio concentrandosi sui ceti medi, certe condivisioni ci siano in sostanza. Ecco, che cosa rimane di quei valori, di quel ceto medio oggi che si parla di una cetomedizzazione di tutta la società italiana? Secondo me nel lungo periodo di quell'esperienza lì è rimasta la forza, per esempio, del valore della sicurezza. Questi ceti medi che hanno attraversato la guerra eccetera e anche forti trasformazioni come lo stesso miracolo amavano la sicurezza, amavano l'ordine, amavano il posto fisso, quindi quella cultura della tranquillità sociale in un certo qual modo, che poi li ha portati anche a essere lontani dal 68, lontani dalle grandi anche conflittualità, è una cultura che appartiene molto agli italiani, quindi nel tempo secondo me quella è rimasta. Naturalmente ora è fortemente in crisi, in questi giorni e mesi e anni di crisi economica, quel sentimento è messo fortemente in crisi e crea infatti insomma una reazione anche culturale molto forte, no? Per la perdita di certe sicurezze. E poi, come dicevo prima, anche questo comportamento, in realtà poi non così consumista come ce lo immaginiamo, ma degli indici di risparmio tutto sommato piuttosto elevati, anche se poi dagli anni 80 c'è un grande calo, però anche quello contraddistingueva il comportamento degli italiani anche nel contesto europeo e soprattutto mondiale, per esempio. Grazie dunque a Enrica Square, autrice di Storia intima dei ceti medi. E vi segnalo due libri che affrontano da due angolature particolari quegli stessi anni. Il primo è il libro di Oscar Iarussi, che è un critico cinematografico e docente universitario, C'era una volta il futuro, l'Italia della dolce vita, pubblicato dal Mulino, 148 pagine, 14 euro. La dolce vita fu l'altra faccia del miracolo economico e dell'abbandono, scrive l'autore, a una modernità tardiva, quindi più convulsa, ma anche fu il periodo di una incontenibile fiducia nel futuro. E di quel clima è assunto come simbolo in questo libro appunto il film di Federico Fellini, La dolce vita. Fellini forse era inconsapevole allora di delineare i tratti, secondo l'autore, di un'Italia assurda e grottesca, che è poi quella nella quale ci troviamo oggi, che appunto spesso definiamo felliniana, che viene descritta in tutte le sue patologie e le nevrosi nel primo capitolo di questo libro. E poi abbiamo la cronaca di come nacque il film e un po' di tutti quegli anni, quindi un libro appassionante, più malinconico che nostalgico, alla luce della trasformazione del paese che si prepara a quello che l'autore in conclusione definisce il grande nulla, la prospettiva attuale nella quale ci troviamo. Un altro aspetto è rappresentato dalla trasformazione urbanistica, spesso ridottasi ad autentico sacco e scempio, che viene affrontata nel libro di Attilio e Gemma Belli, che sono entrambi due urbanisti, Narrare l'urbanistica alle élite, il mondo di fronte alla modernizzazione del bel paese, Franco Angeli, 286 pagine, 38 euro. Il mondo è la famosa rivista di cultura liberale diretta da Mario Pannunzio, che condusse una lunghissima battaglia contro le speculazioni edilizie, le devastazioni dell'ambiente, esplose proprio a partire dalla fine degli anni 50. E di quelle battaglie protagonista principale, ma non unico, sulle colonne del mondo fu Antonio Cederna, che scriveva settimanalmente denunciando appunto lo scandalo del sacco edilizio. Ma non solo lui, ci sono per esempio le foto di molte pagine del mondo con delle straordinarie illustrazioni di Mino Maccari e di Amerigo Bartoli, che sono anch'esse efficacissime nel denunciare una battaglia che purtroppo rimase allora troppo minoritaria. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Cambiamo adesso scenario. Dall'Italia degli anni 50 passiamo ai paesi in via di sviluppo di questi anni e vi propongo un'autrice molto coraggiosa, una giovane economista, Dambisa Moyo, diventata ormai celebre in tutto il mondo, nata in Zambia nel 1969 e considerata una delle più autorevoli rappresentanti della sua disciplina, famosa per le sue teorie spesso eterodosse in materia di aiuti allo sviluppo. Della Moyo sono usciti due libri nei quali vengono ribadite le tesi dell'economista. Il primo si intitola La carità che uccide, come gli aiuti dell'Occidente stanno devastando il terzo mondo, è pubblicato da Rizzoli, 260 pagine, 10,90 euro, tradotto da Lorenza Lanza e Patrizia Vicentini. E poi l'altro titolo, La follia dell'Occidente, come 50 anni di decisioni sbagliate hanno distrutto la nostra economia, pubblicato sempre da Rizzoli, 324 pagine, 19 euro, tradotto da Francesco Peri. Il primo libro è dedicato alla politica degli aiuti internazionali, che la Moyo, collocandosi nella scia di illustri studiosi prima di lei, denuncia come una delle cause del sottosviluppo. Si danno tanti aiuti al terzo mondo, ma in realtà lo si contribuisce a far soffrire sempre di più. Gli aiuti, scrive infatti la Moyo, sono sbagliati, anche se tacitano i nostri sentimenti, la nostra coscienza nei confronti dei paesi poveri. E per dimostrare questa tesi, la Moyo esamina i risultati di queste politiche e ne dimostra l'inutilità. Quello che serve, conclude, è lo sviluppo del commercio, favorire l'accesso al credito perché possa nascere attività d'impresa e spingere per lo sviluppo. L'altro libro ci riguarda più da vicino perché esamina le prospettive del declino che potrebbe diventare irreversibile delle economie dell'Occidente e soprattutto dell'Occidente industrializzato. Abbiamo perso ogni vantaggio, scrive la Moyo, abbiamo costruito le premesse del disastro che esplose nel 2008. Abbiamo eretto continui castelli di carta, abbiamo distrutto il sistema della formazione. E allora il risultato è che l'asse del mondo sta cambiando verso la Cina e gli scenari quindi si fanno inquietanti. La Moyo non esclude nemmeno che in questi scenari più inquietanti ci possa essere alla fine anche la prospettiva di una guerra. Per esempio di una guerra con gli Stati Uniti, che si sta trasformando da una società di imprenditori indipendenti in un paese, scrive la Moyo, socialista. Gli USA, aggiunge, si stanno avviando alla creazione del tipo peggiore e più esoso di stato assistenziale, poco sviluppato e mal concepito, nato dalla disperazione causata da anni di politiche economiche fallimentari. Proprio pochi giorni fa, in un intervento sul Financial Times che sta conducendo un dibattito sul futuro del capitalismo, proprio Dambisa Moyo è intervenuta e ha ribadito in quella sede la fiducia nello sviluppo del suo continente, mostrando appunto che lo sviluppo c'è e ricordando dei dati molto importanti sulle performance economiche dell'Africa. Ricordava per esempio in quell'articolo la Moyo che l'area subsahariana sta crescendo, crescerà quest'anno del 5,8%, e concludeva quest'articolo con quello che è un po' lo spirito che anima questi due libri, e cioè il fatto che curiosamente nella sua forma più autentica, leggo da quest'articolo, il capitalismo sta prosperando proprio in Africa, trascinando milioni di persone fuori dalla povertà e dentro i negozi. È una felice ironia, conclude l'economista, che il continente isolato possa avere successo seguendo le regole del mercato che il resto del mondo ha dimenticato. Un paese che pur in una situazione difficilissima ha imboccato tanti anni fa la strada di uno sviluppo economico molto importante, basato sull'innovazione e sulla ricerca, è Israele. E questo esperimento viene descritto nel libro di Dan Senor e Saul Singer, che sono due giornalisti del Wall Street Journal il primo e del Jerusalem Post il secondo. Il libro si intitola Laboratorio Israele, storia del miracolo economico israeliano, è pubblicato da Mondadori, 292 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Luca Banni. Shimon Peres nota nella prefazione a questo libro quanto l'ambiente circostante abbia contribuito allo sviluppo tecnologico dopo le esperienze iniziali dello Stato di Israele, che si basavano sugli esperimenti di economia socialista dei kibbutz. L'ostilità dell'ambiente non si è attenuata. Nei primi 62 anni della sua esistenza, Israele è stato attaccato 7 volte e ha subito durissimi embarghi diplomatici ed economici. In suo soccorso non si è mosso un solo soldato straniero. L'unico modo per avere ragione della superiorità numerica dei nostri aggressori è stato costruire il nostro vantaggio sulla tecnologia e sul coraggio. La creatività di cui Israele è stato capace non è venuta sviluppandosi in proporzione alle dimensioni del paese, bensì ai pericoli che ci hanno minacciati. La creatività sul fronte della difesa ha poi gettato le basi dell'industria civile. E queste erano appunto alcune righe di Shimon Peres. Ha ragione il vecchio politico israeliano. Questo libro è anche un documento sulla storia di Israele, sulla straordinaria capacità imprenditoriale presente in quel paese, quella che sta dando un grande impulso per esempio al settore dell'auto elettrica. Ma la domanda del libro principale è un'altra: perché proprio in Israele si è sviluppata questa capacità? I talenti, spiegano i due autori, ci sono dappertutto, e anche l'industria militare in fondo è presente spesso in modo massiccio anche in altri paesi che tuttavia non si assistono a queste ricadute così importanti. Notano i due autori che in Israele c'è proprio questo: una grande capacità imprenditoriale, una grande attenzione per l'innovazione, e questo clima viene descritto in tante storie, scritto nel classico stile del giornalismo d'inchiesta anglosassone, vivace e documentato, e si conclude il libro con la domanda sulle ragioni per le quali lo stesso clima non si è esploso in altre zone dove pure sono stati fatti degli enormi investimenti, per esempio Dubai. Scrivono i due autori che attirare nuovi soggetti in un'area offrendo loro una soluzione più economica per svolgere le loro attività non basta, perché poi queste attività vanno alimentate. Aggiungono, per una crescita capace di reggere nel tempo sono necessari anche altri elementi qualitativi, per esempio l'esistenza di una comunità coesa i cui membri siano determinati a vivere, lavorare e fare crescere le loro famiglie all'intorno dell'area. Ma non basta, le economie di molti paesi arabi guardano con serenità all'esperimento di Israele, questo lo scrivono i due autori, con l'obiettivo di creare addirittura 80 milioni di posti di lavoro nel futuro in grado di reggere all'esplosione demografica che è prevista per quei paesi. Purtroppo lì manca proprio quella dote che si è sviluppata in Israele, cioè l'imprenditorialità, e manca per 4 ragioni che vengono così sintetizzate: il petrolio, che è una grande fonte di ricchezza ma anche una palla al piede perché condiziona tutte le scelte, le limitazioni alle libertà politiche, la condizione della donna e la qualità dell'istruzione. E a questo punto il confettino. Restiamo in Medio Oriente, ma in un Medio Oriente fiabesco e fantastico. Questa è la colonna sonora del film La Rosa di Baghdad, un film storico perché è uno dei primi film d'animazione italiano, risale al 1949, con cui Antongino Domenichini cercò di fare concorrenza ai film di Walt Disney, e ora esce assieme al DVD il libro. Il DVD contiene alcuni cortometraggi di Domenichini, alcuni documentari sul film e sul restauro che ha avuto luogo pochi anni fa, e naturalmente il testo della storia. Si intitola La Rosa di Baghdad, 128 pagine, 12 euro più il DVD, pubblicato da Gallucci. E con questo ringrazio Luca Cremonese, Stefania Tagliaferri in redazione, Filippo Regi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica unlibro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.